Job 24. Buon pomeriggio da Roberta Pellegatta. Riparte Job 24 con un nuovo orario. Ogni giorno alle 16.55 la rubrica sul lavoro di Radio 24 con le opportunità per i più giovani, le chance per reinserirsi, le esperienze di chi ce l'ha fatta cambiare e anche i consigli per prendere per il collo la crisi. E proprio da questo partiamo oggi, con i suggerimenti per mettere fieno in cascina, come si suol dire, in attesa di momenti più propizi. E quale mezzo migliore per attrezzarsi della formazione? In particolare, chi aspira ad una carriera nel management o nell'imprenditoria può trovare ogni martedì in edicola con il Sole 24 Ore un utile strumento, il master multimediale dal titolo Management e Leadership, le nuove competenze per crescere professionalmente. Domani il primo numero. Ma le doti di leadership si hanno in maniera innata, spontanea, oppure si possono apprendere, anzi si devono affinare con la formazione? L'ho chiesto ad Alberto Fedel, amministratore delegato Newton Management Innovation. Il talento è l'1%, la traspirazione, come diceva quel tale, tutto il resto, nel senso che c'è chi fin da piccolo o da piccola tende a essere l'animatore del gruppo di amici, però poi non è che finisce lì, insomma, quindi si apprende, bisogna lavorare, bisogna sbatterci il naso. Sbatterci il naso è provare a convincere gli altri a lavorare insieme, andare verso uno scopo comune, quindi bisogna farlo. Poi ha delle regole che ci sono dentro, quindi bisogna ascoltare, bisogna comprendere, bisogna costruire qualcosa che piaccia anche agli altri, però poi bisogna farlo. L'essenza della leadership è, come diceva Peter Drucker, avere della gente che ti segue. Diamo un consiglio agli ascoltatori più giovani che aspirano a una carriera nel management, ci stanno pensando. Che cosa bisogna curare in modo particolare, sia a livello di competenze, di preparazione, ma sia anche a livello caratteriale e psicologico? Ecco, la seconda di più, le competenze ormai sono una condizione igienica, le competenze tecniche, dipenderà dai mestieri che andranno a fare. Secondo me, sempre più spesso negli ultimi anni, l'idea del leader che manipola, che utilizza gli altri in modo strumentale è sempre meno vera. Quindi io credo che il leader di oggi debba innamorarsi di un'idea, ma poi anche un filino innamorarsi delle persone con cui la vuole costruire. Ecco, essere un po' meno egoisti e un po' meno autocentrati, la direi così, un po' meno egocentrici. Da recenti indagini negli Stati Uniti e anche in Gran Bretagna risulta che dopo la crisi cresce il numero degli impiegati che di occupare posizioni dirigenziali non ne vuole sapere. Troppi problemi, paura di dover tagliare, di licenziare, a quanto pare anche una sorta di delusione nei confronti dei loro dirigenti. Ma è così duro fare il manager? Allora, anche nell'esperienza che io ho in Italia, la mia sensazione è che oggi fare il manager, governare risorse umane è un lavoro estremamente stressante, non ci sono strumenti meccanici, quindi non mi stupisce questa cosa. C'è un altro elemento, bisogna prendere delle decisioni in condizioni di incertezza continuamente, che hanno impatto su se stessi e sugli altri, e questa è una cosa che porta a livelli di stress elevati. Invece quali sono tutti i buoni motivi per pensare a una carriera manageriale? Perché quelle volte che vinci sono esaltanti. Quando si alza la coppa, quindi quando l'idea ti è riuscita, l'impresa ti è riuscita, il prodotto ti è riuscito, è una bella soddisfazione. Io consiglio di buttarsi invece. E questo era il suggerimento di Alberto Fedel, amministratore delegato Newton Management Innovation, uno dei formatori del master multimediale Management e Leadership in edicola da domani con il Sole 24 Ore. Ed è tutto per oggi, Job 24. Torna domani alla stessa ora e vedremo le tante possibilità lavorative che offre a laureati e non il settore fotovoltaico, con tanto di indirizzi a cui inviare il curriculum. Se avete degli argomenti da suggerire, volete porre domande, potete scrivere a job24@radio24.it. Grazie per l'ascolto, a domani alle 16.55 con Job 24.